narrazione del sé, quindi dell'individuo, che sia una narrazione scritta o una narrazione orale, dipende da come è la fonte ovviamente, bisogna fare molta attenzione alle corti generazionali, cioè se la testimone è una testimone, sto parlando adesso della resistenza e dell'antifascismo, è una donna che è nata ai primi del secolo e che quindi per esempio ha già partecipato alle lotte antifasciste, la clandestinità durante il regime, ha subito persecuzioni, è stata arrestata, è andata al confine eccetera, per cui il passaggio alla resistenza, sia essa civile o armata, è un passaggio che in qualche modo, non dico che non comporti una scelta, ma sicuramente è un percorso che ha un fondamento in esperienze pregresse. Altro è la corte generazionale, e penso a una Marisa Rodano, alle sorelle Mafai, eccetera, che sono invece nate negli anni 20 e quindi sono giovanissime, hanno 18-20 anni nel momento dell'occupazione nazista a Roma, sono cresciute durante il regime fascista, e guardate che il regime totalitario, quale che esso sia, se ha uno scopo è quello di far sì che gli individui non scelgano ma si affidino all'uomo solo al comando, di cui insomma qualche cosa ci viene in mente anche oggi, e queste quindi senza punti di riferimento culturali ed esterni sono in grado di scegliere, cioè di scegliere e di passare dalla parte diciamo dell'opposizione, della resistenza. Allora dico questo perché se no, se si fa un mucchio diciamo delle donne che partecipano alla resistenza, secondo me si fa un errore gravissimo, insomma si fa un errore di prospettiva, perché è diversa, come dire, l'esperienza. L'altra questione che volevo sollevare è che non solo è un problema di corti generazionali, e spero di essere stata chiara, ma è anche una questione fondamentale e dirimente fare attenzione a quando la memoria della propria esperienza è stata narrata. Perché altro è raccontare immediatamente, subito dopo la guerra, quella che era stata l'esperienza. Io ho un modello in testa che per me è fondamentale, dico continuamente, ed è il quaderno numero 4 di Mercurio, la rivista diretta da Alba de Céspedes, che è tutta dedicata alla resistenza romana, e sono tutte memorie di persone che hanno partecipato alla resistenza romana, che vanno da Irene Brin, Maria Bellonci, cioè adesso sarebbe lungo fare, e hanno diciamo raccontato immediatamente, perché l'hanno raccontato nel marzo del 44. Altro è quando noi andiamo a leggere, per fortuna adesso ne abbiamo molti, le testimonianze all'interno di una storia di vita di donne che sono state non solo diciamo protagoniste della resistenza romana ma anche italiana, ma dell'Italia repubblicana. Allora penso a Maria Teresa Regar, penso che è stata già citata se non vado errata, non è stata citata, ma Maria Teresa Regar è stata una grande donna e ha partecipato appunto alla formazione dei GAP, penso a Maria Cenciari Rodano. L'elenco sarebbe lungo e non ve lo voglio fare, ma insomma è diverso negli anni 90 andare a ripercorrere la propria esperienza di vita negli anni della resistenza. Perché è diverso? Perché c'è un quadro di riferimento che è quello che si chiama l'opinione pubblica condivisa, e anche qui adesso mi fermo un secondo. È vero quello che dice Alessandra, che è stato sempre molto difficile parlare delle donne nella resistenza, ed è stato difficile da parte delle donne parlare della loro esperienza nella resistenza. Perché? Perché non esisteva un orizzonte d'ascolto. È la stessa storia dei deportati, lo dice con estrema chiarezza Primo Levi. Non è che io non volessi raccontare la mia esperienza nel campo di concentramento, che nessuno mi voleva ascoltare, cioè non esisteva l'orizzonte di attesa, non esisteva un'opinione pubblica condivisa che accettasse che le donne avevano, perdonatemi il termine un po' rozzo, scapolare da un ruolo materno o comunque un ruolo di cura, e questo tanto più valeva per le donne combattenti. Allora, Roma è stata 8 mesi sotto l'occupazione nazista, lo sappiamo tutti, quindi la resistenza in quegli 8 mesi è stata una roba completamente diversa da quello che succede a Napoli o quello che succede nel nord Italia, dove è molto più lungo. Vi devo solo dire questo, che quando gli alleati arrivarono a Roma, la liberazione eccetera, rimasero sconvolti dalle condizioni della popolazione romana. E sì che venivano da Napoli, cioè Roma ha sofferto, dice una testimonianza appunto su Mercurio, Roma è stata per 8 mesi un corpo, solo un corpo, che aveva fame, avevano una razione che era di 100 grammi al giorno, a partire da marzo, di pane, che doveva essere divisa con tutti quelli che le donne nascondevano. E quindi è un lavoro, come dire, di partecipazione in questa guerra civile enorme, ma non è solo questo, è anche le GAP, le donne gappiste, che hanno partecipato agli scontri militari. Penso alla Carla Capponi, ma non c'è bisogno che cito Carla Capponi, ma anche Teresa Regar, come dicevamo prima, hanno fatto attentati, hanno partecipato e su queste effettivamente il problema, proprio per quello che diceva prima Alessandra e per il tabù della donna armata, che è stato a lungo, diciamo, perseguito e tuttora persegue, c'è stato un po' di silenzio. Scusate se ho parlato poco di Roma, ma sono dovuto terminare.